America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. You're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. Avete sentito il presidente Trump, piccola gaffe. Che è successo? Che ieri, accogliendo alla Casa Bianca dei rappresentanti di una tribù indiana, dei Navajo, Trump a un certo punto, così credendo di fare una battuta, dice: ma sapete che abbiamo un esponente al congresso che dicono che qui ormai da innumerevoli anni la chiamano Pocahontas. E la tribù, i rappresentanti della tribù dei Navajo sono rimasti un po' perplessi. Pocahontas, come sapete, è un grande personaggio leggendario nella storia degli indiani di America. E il riferimento qual era? Il riferimento era al senatore democratico del Massachusetts Elizabeth Warren, la quale nei suoi comizi diceva di avere del sangue indiano. E allora Trump, che era bravissimo nel battezzare ciascuno con un nomignolo, aveva cominciato a chiamare Elizabeth Warren Pocahontas. Ma ieri alla Casa Bianca, a parte questo piccolo episodio, si è parlato soprattutto di riforma fiscale. There is very big support for middle income tax cuts, which is a big part of the focus of the president, and making our business tax system competitive with the rest of the world. That's what this is all about. Ecco, riforma fiscale ormai è agli sgoccioli, quantomeno dal punto di vista delle procedure politiche, perché oggi la commissione al bilancio del Senato voterà il testo. È un testo diverso rispetto a quello passato alla Camera. Non è chiaro se passerà facilmente, perché uno dei repubblicani in commissione, Bill Johnson, è tra gli indecisi. Dopodiché, se dovesse passare appunto oggi, si andrà al voto al Senato già giovedì o venerdì. A quel punto ci dovrà essere il percorso di riconciliazione con la versione della Camera, però con alcuni problemi, perché ci sono almeno 6 senatori repubblicani che hanno espresso qualche perplessità sul testo, e perché passi c'è bisogno di almeno 51 voti, e con 6 repubblicani così dubbiosi il rischio che non passi potrebbe anche esserci, e dunque si dovrebbe un pochino ricominciare. Sarebbe però un disastro per il Partito Repubblicano, perché è un partito che deve dimostrare, dopo quasi un anno alla Casa Bianca in controllo del Congresso, di essere in grado di concludere qualche cosa. Roasting chicken and roasting having chicken. Trying to roast a chicken. And it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee. Was it an instant yes from you? Ecco, avete sentito, yeah. L'America ieri è tornata a sognare. La Casa Reale Britannica ha ufficializzato, ha annunciato che il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle sono ufficialmente fidanzati e si sposeranno nella prossima primavera, probabilmente in aprile. Beh, devo dire, qui l'America, quando c'è una notizia di questo genere, impazzisce. Le televisioni non hanno fatto altro se non ripercorrere la storia d'amore di questi due giovani, ed è, come dire, una fiaba americana che è un po' in contraddizione con gli stessi valori americani, perché l'America nasce in una rivoluzione contro l'aristocrazia britannica, giurando fedeltà alla Costituzione. Chi diventa cittadino americano deve rinunciare a qualunque titolo che possa avere qualunque cosa a che fare con l'aristocrazia di vecchio stampo europeo. Eppure, beh, gli americani alla fine cadono nel fascino dell'aristocrazia, della monarchia, e devo dire soprattutto degli inglesi. C'è un piccolo complesso nei confronti degli inglesi. E dunque la storia è perfetta, perché il principe Harry, 33 anni, e Meghan Markle, 36, si sono conosciuti nel 2016, un anno di fidanzamento, un corteggiamento, un viaggio in Botswana, i giornali che si occupavano di loro, e poi alla fine questo annuncio con la storia che lei stessa ha raccontato del principe Harry che si è messo in ginocchio e le ha dato l'anello, un anello incastonato con brillanti della madre Lady Diana. E lei dice: ma l'accetto subito, guarda, non è neanche bisogno di finire la tua dichiarazione. Una donna simpatica, intelligente, americana, vi dicevo, divorziata, come Wally Simpson, perché improvvisamente si torna a parlare di un'altra americana che colpì col suo fascino, in quel caso addirittura il re Edoardo VIII, che per lei decise di abdicare. Il 1936, quando ci fu appunto lo scandalo, la situazione ovviamente era molto diversa rispetto adesso, non solo perché Edoardo VIII sposava una donna non britannica, un'americana, ma perché era un'americana che era già stata divorziata due volte e i due mariti erano tutti e due in vita. Uno scandalo assoluto per il palazzo. Ci sono stati poi momenti difficili successivamente, è stato un processo molto graduale questo dell'evoluzione della monarchia britannica verso così un momento di maggiore relax. Ma i tempi cambiano e sono cambiati soprattutto col principe William, che ha sposato Kate, che è una giovane, bella, brillante, simpatica, intelligente, ma anche lei non è una aristocratica. E si fa tra l'altro con l'annuncio di questo matrimonio un altro passo in avanti, perché la madre di Meghan è un'insegnante di yoga afroamericana, il padre di ascendenze olandesi è un ex direttore della fotografia, è bianco, e dunque Meghan racconta, dice: ma mi dicevano a scuola di segnare, ma sei afroamericana o caucasica? E io mi identifico in quello che sono, figlio di una donna afroamericana e quindi della stirpe afroamericana e di un bianco. Poi la maestra mi ha detto: ma no, guarda, siccome sembri più bianca che altro, metti caucasica. E questa cosa, disse, mi lasciò molto molto male. Ci sono stati naturalmente problemi di discriminazione con alcuni tabloid inglesi che ironizzavano sul fatto che il principe Harry avesse una storia con una donna mista, con una donna di retaggio afroamericano, e su questo devo dire Harry è stato durissimo e intervenuto accusando i media di razzismo e di sessismo nei confronti della Merkel. La coppia, dopo aver avuto gli auguri della regina, del principe di Edimburgo, l'entusiasmo del padre, del principe Carlo, dovrà scegliere, è stato offerto dalla regina, se diventare il duca e la duchessa del Sussex oppure se mantenere il titolo di principe Harry del Wales come il padre. Devo dire, magari le scelte fossero tutte così difficili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato delle nozze, le nozze di Meghan e del principe Harry, e dunque alla storia d'amore dedichiamo la canzone del giorno con Johnny Cash, I Love You Because. I love you because you understand, dear, every little thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. But most of all, I love you 'cause you're you. No matter what may be the style or season, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you. Because my heart is lighter every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter. The door to happiness you've opened wide. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti vanno a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo come sempre che se vi siete persi qualcosa di questa trasmissione c'è sempre il podcast che potete ascoltare, potete anche iscrivervi così e avete la segnalazione quando arriva la nuova puntata. C'è la pagina Facebook di Effetto Giorno, la pagina Facebook di Radio 24. La trasmissione torna domani alle 13 e noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.